Basic Italian, 7th edition, Chapter 6. A. Let's see if you can identify the items singled out. To classify the items, use the categories verdura, pesce, carne, formaggio, pasta, frutta. Listen as the model is done for you. Che cosa è il tonno? Il tonno è un tipo di pesce. Now it's your turn. Work on sound and recollection. 1. Che cosa è la mozzarella? 2. La mozzarella è un tipo di formaggio. 3. Che cosa sono le fragole? Le fragole sono un tipo di frutta. 3. Che cosa sono le patate? Le patate sono un tipo di verdura. 4. Che cosa sono i fagiolini? I fagiolini sono un tipo di verdura. 5. Che cosa sono le banane? Le banane sono un tipo di frutta. 6. Che cosa sono le carote? Le carote sono un tipo di verdura. 7. Che cosa è la ricotta? La ricotta è un tipo di formaggio. 8. Che cosa sono i ravioli? I ravioli sono un tipo di pasta. 9. Che cosa sono le mele? Le mele sono un tipo di frutta. 10. Che cosa sono i broccoli? I broccoli sono un tipo di verdura. 11. Che cosa sono gli spaghetti? Gli spaghetti sono un tipo di pasta. 12. Che cosa sono gli zucchini? Gli zucchini sono un tipo di verdura. 13. Che cosa è il parmigiano? Il parmigiano è un tipo di formaggio. 14. Che cosa sono le lasagne? Le lasagne sono un tipo di pasta. 2. What can be found at the central market? Answer the speaker's questions. Listen first to the model. C'è carne? Sì, c'è carne di tutti i tipi. Now it's your turn to answer. 1. C'è formaggio? Sì, c'è formaggio di tutti i tipi. 2. C'è pesce? Sì, c'è pesce di tutti i tipi. 3. Ci sono le verdure? Sì, ci sono verdure di tutti i tipi. 4. C'è carne? Sì, c'è carne di tutti i tipi. 5. C'è frutta? Sì, c'è frutta di tutti i tipi. 6. Ci sono dolci? Sì, ci sono dolci di tutti i tipi. 7. C'è pane? Sì, c'è pane di tutti i tipi. 8. Ci sono formaggi? Sì, ci sono formaggi di tutti i tipi. Sì. You have stopped at the stalls of the open-air market and are looking over the merchandise. Negotiate with the merchants and tell them what you think of the prices. Listen first to the model. Quanto costano gli zoccoli? Costano 25.000 lire. Costano poco. Li prendo. Look in your manual for the necessary prompts. Play the role of both client and merchant. After reciting the dialogue, listen for the speaker's confirmation of the dialogue. Before beginning, look in your manual for the negotiating options. Ready? Let's start. 1. Quanto costa la giacca di pelle? Costa 150.000 lire. Costa molto, ma la compro. Due. Quanto costa la sciarpa di lana? Costa 60.000 lire. Costa troppo, non la compro. Tre. Quanto costa la borsa di pelle? Costa 90.000 lire. Costa poco. La prendo. Quattro. Quanto costa il foulard di seta? Costa 50.000 lire. Costa poco, lo prendo. 5. Quanto costano i guanti di pelle? Costano 45.000 lire. Costano molto, ma li compro. 6. Quanto costa il cappello di paglia? Costa 75.000 lire. Costa troppo. Non lo compro. 7. Quanto costa la borsa di paglia? Costa 40.000 lire. Costa poco, la prendo. Otto. Quanto costano le scarpe? Costano 95.000 lire. Costano troppo, non le compro. Nove. Quanto costa la cravatta di seta? Costa 85.000 lire. Costa molto, ma la compro. Dieci. Quanto costano i guanti di lana? Costano 15.000 lire. Costano poco, li prendo. D. Can you tell us where we can buy the following items? Before beginning, look at the brief vocabulary list in your manual. Ready? Let's begin. 1. Dove compriamo i gettoni? 2. Li compriamo alla tabaccheria. 2. Dove compriamo il latte? Lo compriamo alla latteria. 3. Dove compriamo la frutta? La compriamo dal fruttivendolo. 4. Dove compriamo il pesce? Lo compriamo dal pescivendolo. 5. Dove compriamo gli zoccoli? Li compriamo al mercato aperto. 6. Dove compriamo le aspirine? Le compriamo in farmacia. 7. Dove compriamo la verdura? La compriamo dal fruttivendolo. 8. Dove compriamo la carne? La compriamo dal macellaio. 9. Dove compriamo il pane? Lo compriamo dal fornaio. 10. Dove compriamo la pasta, lo zucchero, il caffè? Li compriamo al negozio di alimentari. 11. Dove compriamo i dolci? 12. Li compriamo alla pasticceria. 12. Dove compriamo il gelato? Lo compriamo alla gelateria. E. Answer the next set of questions in the negative. Use a direct object pronoun wherever possible. Let's begin. 1. Mi senti? No, non ti sento. 2. Senti la radio? No, non la sento. 3. Ascolti la radio? No, non l'ascolto. 4. La televisione ti disturba? No, non mi disturba. 5. Desideri vedere il giornale? No, non desidero vederlo. 6. Preferisci il tè al caffè? No, non lo preferisco al caffè. 7. Scrivi le lettere? No, non le scrivo. 8. Prepari la minestra? No, non la preparo. 9. Cucini il pesce stasera? No, non lo cucino stasera. 10. Mangiamo il gelato stasera? No, non lo mangiamo stasera. 11. Prendiamo l'autobus? No, non lo prendiamo. 12. Compriamo la frutta oggi? No, non la compriamo oggi. 13. Andate a vedere il film Terminator 2? No, non andiamo a vederlo. 14. Finite gli esercizi? No, non li finiamo. 15. Venite a vedermi stasera? No, non veniamo a vederti stasera. 16. Venite a prendere il dizionario? No, non veniamo a prenderlo. 17. Venite a leggere la lettera? No, non veniamo a leggerla. 18. I ragazzi ascoltano la musica? No, non l'ascoltano. 19. I bambini guardano la televisione? No, non la guardano. 20. Carla e Pia comprano la verdura? No, non la comprano. F. Pia's watch is running exactly 20 minutes behind. Every time she asks you to confirm the time, make the necessary adjustment. Listen first to the model. Sono le tre, vero? No, sono le tre e venti. Now it's your turn to answer Pia's questions. Uno. È l'una, vero? No, è l'una e venti. Due. Sono le otto, vero? No, sono le otto e venti. Tre. Sono le due e mezzo, vero? No, sono le tre meno dieci. Quattro. È mezzanotte, vero? No, è mezzanotte e venti. Cinque. Sono le undici meno venti, vero? No, sono le undici. G. Ask the questions that elicited the responses you hear. Listen first to the model. Il treno parte alle 20. A che ora parte il treno? 1. La lezione comincia alle 10. 2. A che ora comincia la lezione? 2. La lezione finisce alle 11. A che ora finisce la lezione? 3. L'ufficio del dottor Matteotti apre alle 8:30. A che ora apre l'ufficio del dottor Matteotti? 4. I negozi chiudono alle 20. A che ora chiudono i negozi? 5. Il treno per Pisa arriva alle 15:30. A che ora arriva il treno per Pisa? 6. Il treno per Livorno parte alle 22:05. A che ora parte il treno per Livorno? 7. Gli autobus partono ogni 15 minuti. Quando partono gli autobus? 8. Il volo Milano-Los Angeles è ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Quando c'è il volo Milano-Los Angeles? H. You will now hear a brief narration. Listen to it carefully, then answer the questions in your manual. Oggi Paola e Marisa vanno a fare la spesa al mercato centrale di Livorno. Marisa desidera comprare del pesce per fare la minestra di pesce e Paola desidera vedere il mercato aperto. Il mercato centrale di Livorno, come quello di Firenze, è diviso in due parti: il mercato coperto e il mercato aperto. Nel centro del mercato centrale c'è un grande edificio dove vendono carne, pesce, formaggi. Questo è il mercato coperto. Fuori c'è il mercato aperto, dove ci sono le bancarelle di verdura e di merce generale. Alle bancarelle c'è di tutto: frutte e verdure di tutti i tipi e merce di ogni tipo e specie. Marisa compra il pesce dal pescivendolo. Poi vanno alle bancarelle, dove Paola compra delle fragole belle mature. A una bancarella, sotto i portici, Paola compra anche un bel cappello di paglia nero. Le due signore ritornano a casa a piedi, perché gli autobus sono troppo affollati.